Good morning, Italy! My name is Aram Kian e sono italiano. Quella che vi racconto è la storia di un italiano, ve la racconto io, che sono Aram Kian nella vita e nella finzione radiofonica, ve la raccontano Simona Nasi, che sarà mia mamma, e Tatiana Lepore, che sarà la maestra Simeoni, Manuel Bruttomesso, che sarà Davide, e Giovanni Vaccaro, che sarà Ludovico. Questo sceneggiato è curato da Caterina Olivetti e da Emma Caggiano, le scenofonie sono di Roberto Tarasco, la regia di Gabriele Vacis. Bianco, bianco, tutta la terrazza bianca, bianco, cosa vorrà dire bianco e luminoso, uniforme, ne aveva avanzata quasi una latta piena, aveva dipinto di bianco la cucina. Ma quante vernici hai preso? Non la butto mica via, anzi, guarda, domani faccio anche la camera da letto, ma domani se n'era andato al bar perché era domenica. Posso venire con te, papà? Non ti ci portava mai, domenica pomeriggio, dov'è che finivano tutti la domenica pomeriggio? Stai buono, Rambo, gioca con Bobby, io faccio il bagno e poi andiamo a trovare nonna, faccio in fretta. Sì, faccio in fretta, come no, faccio in fretta, si era formata una pellicolina duretta sul pelo della vernice bianca e te dovevi scioglierla mischiando con la pennellessa, oh sì, sì, quel bianco è il colore del latte di mia mamma, sì, la mano immersa fino al polso, tirala su, Vuoi entrarci in questa latta di vernice, inabissarti? Porca zozza, gocce di vernice, gocciola, tutto sporco, come faccio? Con la pennellessa bisogna pulire, sì, ecco, unire una goccia con l'altra sul pavimento, bianco, sì, tutto il pavimento del balcone, bianco. Aram, Arambot, cosa fai? Cucco. Arambot, rispondi, perché non sento niente? Che cosa stai facendo? Niente, mamma. Sei bravo, gioca con Bobby, io ho quasi finito. Sì, sì, sì, sì, Bobby, Bobby, sì, sì, sì, Bobby, Bobby, vieni qua, Bobby, Bobby, fermo, Bobby, ecco, bravo, Bobby, chiudi gli occhi, Bobby, bene, bravo, ecco così, slap, slap, zampetta a destra, zampetta a sinistra, tutta la pancia, bianco, bianco, bianco il tavolo, bianco il pavimento, bianco il cane. No, no, no, no, no, no, non venire, mamma, ancora un momento, ancora un momento. Aram, hai verniciato Bobby. Porca zozza, Bobby, entra. La sento, la sento, la sento. Esce dalla vasca, si butta addosso l'asciugamano, quello bianco da spiaggia. Eccola. Con le ascelle tiene l'asciugamano bianco e con le mani il cane bianco. E si vede che aveva creduto che avessi dipinto solo il cane. Già questo sarebbe bastato per procurarmi una scarica di legnate. Invece tutta la terrazza completamente dipinta di bianco. Lascia cadere cane, asciugamano. Non l'avevo mai vista nuda all'aria aperta. Anzi, non l'avevo mai vista nuda. Ma cosa diavolo ti venne da pensare proprio adesso che ti rialzi, ti fa male un fianco, ma non importa. Mamma, pulisco tutto io. Ma vai in casa, eh. Non ti preoccupare, lavo tutto io. Vuoi farmi morire? Vuoi che mi ammazzi? Tu vuoi che io mi ammazzi? Mamma, mamma, ascoltami, mamma. Pulisco tutto io, ma vai in casa. E quando esci, ho pulito tutto. Vai in casa, vai in casa. Tu non hai nessuna pietà di me. Vuoi farmi morire? L'inseguimento continua. Mamma, vai in casa, 4-5 giri. Mamma, sei nuda. Lei fa anche delle finte. Scarta, dribbla. Una latta di caffè, qualità oro, di quelle che si aprivano con l'apriscatole. Ferma immagine. Non farai in tempo a schivarla, questa volta vuole proprio prenderti, questa volta vuole... A pensarci bene, questa volta anche te vuoi farti prendere. In pieno, appena sopra l'occhio destro. Non mi fa male, no, non mi fa male, cioè poco. Mamma però non urla più. Fermati, fermati. No, no, no, non mi fermo perché tu me le suoni. Non mi fermo, pulisco tutto io. Aram, Aram, fermati. No, no, no, non mi fermo, non mi fermo perché tu me le... Lei si porta la mano libera davanti alle labbra, poi mi indica la fronte e io silenziosamente ne seguo il movimento con la mia mano. Allora mi accorgo che ho l'occhio destro chiuso, tocco piano le palpebre con l'indice e il medio, allontano le dita, ripeto questo movimento. Staccare il dito dalla fronte, guardarlo, diventa rotondo. Feedback, il mio dito si porta dietro tutto l'interno di me. Ush! Dalla ferita sopra il sopracciglio viene fuori tutto il mio corpo, effetto speciale, sono rivoltato io. Adesso sono tutto fuori, la punta di due delle mie dita possono raccogliermi, mi volto, mi vedo la fronte, il taglio da cui sono uscito, guarda, guarda quanto sangue sull'occhio, la guancia, pulisco tutto, io, mamma. Oh no, tranquillo amore, tranquillo, adesso la mamma ti pulisce, tranquillo. Come però... abbia fatto a prenderti non lo sai, lei adesso è dietro di te che ti sorregge mentre cerchi di scostarti perché ti picchierà. Scusami, scusami piccolino, scusami. Invece piange, piange, perché piange? Ha l'asciugamano sporco di sangue, l'ha fatto. Mamma, mamma, perché l'hai fatto? Mamma, perché ti sei uccisa? Mamma, pulivo tutto io, ti prego non morire, mamma, non morire, non morire, ti prego non morire, non morire. Dio mio, scusami. Ti trascina in casa, verso il lavandino, apre l'acqua, bagna l'asciugamano, ma lei non ha nessuna ferita, te lo passa sulla faccia, poi lo strizza sotto l'acqua e tutto il sangue sangue, il sudore, le lacrime si sciolgono e inghiottiscono nello scarico. Non ti sei uccisa, mamma. Stai tranquillo, Ram. Un taglio di 2-3 centimetri provocato dal bordo tagliante della latta appena sotto l'arco sopraccigliare. Tua madre pensò che fosse l'occhio, ti vide guercio per il resto della vita. Aveva sbagliato mira, di poco. Oh, ecco, adesso togliamo questa camicia tutta sporca. Non ti faccio male, vero amore? Ecco, via questi pantaloncini, bianchi di vernice. Bianco e rossi di sangue, scarpe, calze, mutande. Opla! Ti solleva dalle ascelle, ti deposita dentro la vasca in cui si era appena lavata lei. Tieni, piccolino, tieni premuto l'asciugamano sull'occhio. Siete tutti e due nudi. Normalmente tu sei nudo mentre ti fa il bagno, ma lei no. Eccola. Ti insapona tutto, uniformemente. Abbiamo bene tutto, il mio cucciolino. Sì, sì. No, no, no, strizza la spugna, facendo colare bene l'acqua per sciacquarti. Bene, guarda. Ti solleva ancora dalle ascelle e ti fa planare in piedi sopra una sedia. Gocciolo, mamma. Solo un momento, cucciolino. Sempre nuda, va in camera da letto a prendere un altro asciugamano. Ecco qua il mio cucciolino. Asciughiamo bene le spalle, la testa. Mi fai il solletico. Asciughiamo bene i piedini. No, no, no, chiudilo. Le gambe. Ma guarda il pirillino del mio cucciolino. Il mio pirillino si è arrabbiato. Ti dice sorridendo furba mentre si abbassa, ti ci dà un bacio, non si rialza subito. Alza solo lo sguardo come per dirti qualcosa, poi ci mette un altro bacio. Si rialza, ti parla nell'orecchio. Ma perché? Eravamo soli in casa, in tutto il cortile c'era il deserto da domenica pomeriggio. Arambot. Ma perché parla come i fidanzati, deficiente? Ti fa male l'occhio? No. Adesso comunque andiamo al pronto soccorso, però tu sei buono, vero? Sì. Senti, quando il dottore chiede come hai fatto a tagliarti, diciamo che sei caduto sullo spigolo del tavolo, Sì. Avresti detto qualunque bugia per avere un altro bacio come quello di prima. Invece la tua fidanzata si riveste, riveste te, quindi uscite tenendovi per mano. È la prima volta che sei tu a tenere per mano lei anziché viceversa. Prima di adesso neanche sapevi che esistesse una differenza fra il tenere e l'essere tenuti. 3 punti, ma non ricordi dolore, mentre il dottore ha dovuto dire alla tua fidanzata di uscire un momento appena ha cominciato a cucire perché è impallidita di colpo. Sono caduto mentre giocavo. Anche a papà diciamo così, vero? Eh? A papà diciamo così, vero? Ah no, a papà no, a papà lo dico io. Lo dici tu? Ma come sarebbe lo dici tu? Cioè, era per finta allora? Degenerata, carogna lurida. Oh, povero Arambò, ti fanno male i punti? Sì. Povero Arambò. Sì, sì, adesso sì. Sì che mi fanno male. Amore mio. Io sono uno di quelli che si riempiono lo zainetto di bombe e fanno saltare la metropolitana di Londra. Se uno alto, biondo, con gli occhi azzurri venisse qui a dirti ho lo zainetto pieno di bombe, tu ti metteresti a ridere, ma se te lo dico io, un brivido ti viene, no? Solo perché sono basso e nero, che poi non sono neanche tanto nero, al limite un po' olivastro, che però adesso è anche peggio, almeno fossi senegalese. Bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, bianca, mia madre, bianca, sempre stata, mio padre ne... olivastro, non è nero, è iraniano. Gli iraniani non sono neri e non parlano l'arabo, non lo capiscono nemmeno l'arabo, maestra del cavolo. Non chiedermi se parlo arabo, al limite iraniano o farsi, ma no, non parlo iraniano, non parlo farsi, parlo italiano, signora maestra. E se lei mi chiama ancora una volta Gheddafi, io lo dico a mio padre. Si ricorda la foto di Saddam Hussein quando è stato arrestato? Mio padre uguale. E poi Gheddafi è Libia, mio padre è Iran, non c'entra niente. Mio padre è Manuchar Khan, nobile, come Gengis Khan, Manuchar Khan, Gengis Khan. Mio nonno era ricco sfondato, non stava mica a coltivare cotone come voi qui a Sinago Milanese. Mio nonno era impresario edile, donne, gioco, bella vita, ristoranti, limousine, yacht, crociere, palazzi, regge, sesso, droga, rock and roll. Sperperato tutto. E beh, ha ricominciato da capo, ha cambiato moglie, la si usa. E in 3 anni si è rifatto una fortuna grazie al patrimonio della nuova moglie, la si usa. Ricchissimo, terreni su cui hanno costruito mezza città, Mashhad. Mashhad è la seconda città dell'Iran dopo Teheran e a Mashhad mio padre possiede terreni che gli ha lasciato mio nonno, anche se mio padre non ha mai visto un soldo, mentre gli ziastri, bastardi, vivono a Pasadena, hanno una catena di supermercati. Mashhad, Mashhad io l'ho vista solo su Google Earth. Non deve essere male. No, no, io no, no, non sono mai stato in Iran. Come mai no? Impegni, lavoro, appuntamenti, carriere, convention. Voglio andarci però. Voglio andare in Iran con mio padre per riprenderci i nostri terreni e i nostri soldi. Ma fino a 40 anni è pericoloso per te perché ti fanno fare il militare. Io non sono mai stato in Iran, ma se ci vado mi fanno fare il militare. Capito, signora maestra? Non c'entro con Gheddafi, è il padre nostro, non lo so, perché mio padre è comunista. Sì, comunista, non musulmano. Vergogna, mio padre è iraniano, ateo e comunista. Vergogna. Sì, sì, signora maestra, padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sì, signora maestra, come in cielo così. Sì, signora Simeoni. Oggi la signora Simeoni ti porta in gita, chissà dove ci porta, che bello, che bello, che bello. Bambini, che bello. In fila per due, rimanete in fila per due e fate attenzione che attraversiamo la strada. In fila per due vuol dire per mano con Davide. Te le prime volte cercavi di dirlo alla signora maestra, Davide, la mano, non ce l'ha. È monco, ha una protesi. Non si può definire mano quella, è una spugna. È l'oggetto più sudato che sia mai apparso sulla faccia della terra. Eccoci arrivati, bambini, mi raccomando, fate il bravo. Ma dove ti ha portato? Cosa ci sei venuto a fare qua? Chiesa dei Frati, che gita è? Oddio, vero che le chiese italiane sono la meta prediletta dai turisti di mezzo mondo, ma non questa. Te non te ne intenderai molto, c'hai solo 8 anni. Ma la chiesa dei Frati di Sinago Milanese non è bella. Vabbè, va, entriamo. Dai, Davide, coraggio, dai, Davide, non farti tra... Ma porca zozza, Davide, ma come fai a sudare così tanto? Urca, urca, quanta gente, questi... Davide, Davide, cos'è? Una setta segreta, eh? Un complotto interspaziale. Ma no, cretino, è la messa. La messa? A me mi sembrano degli alieni. Silenzio, bambini, state seduti, composti, e mi raccomando, non fate baccano. La la, e chi parla? Uno c'è che parla, ma... Ma come è vestito, Davide? È il prete, cretino. Ah, il prete. E Davide, Davide, i piccoletti con i tunichetti? I righetti, cretino. Cambiatevi un segno di pace. Piacere, piacere, Aram. Piacere. Si dice la pace sia con te, cretino. Oh, adesso, Davide. Ma perché si alzano tutti? Dove vanno? Oh, mica mi lasceranno qua da solo. No, Davide, anche tu, dove vai, Davide? Mi metto in fila per la comunione, cretino. Ah, beh, sì, certo. Ma che cos'è la comunione? No, no, no, no, no, no. Anche la signora Simeoni si alza, si mette in fila. Io? Cosa faccio io? Oh, no, no. Scusa, scusa, Ludovico. Te, perché non ti metti in fila, te? Eh? Perché non ti metti in fila? Perché non sono andato a confessarmi. Ah. E tu, Gheddafi, ci sei andato a confessarti? Sei proprio scemo, Ludovico. Ma voi terroni vi confessano. Certo, certo che ci confessano. E facciamo anche la comunione. Oddio. Oddio, speriamo che non sia doloroso. Speriamo che non mi facciano male. Iniezioni non dovrebbero essere, non ho visto siringhe. Oh, cari miei, a me mi spiace, però punture senza la mia mamma a me non me le fate. Meno tre. Certo, però... Tornano tutti con certe facce. Non riesco a vedere bene cosa succede davanti. Aspetta, ecco, ecco, vedo. Ma cosa gli caccia in bocca? Meno due. Oddio, oddio, ci avviciniamo. No, no, no. No, calma, calma, calma. Un attimo, devi pensare, devi ragionare con calma. Non commetterai qualche reato? Meno uno. E se commetti qualche reato verso Dio, qualche, come si dice, peccato, sacrilegio, eresia, e Gesù scende dalla croce, ti prende per il colletto, ti solleva davanti a tutti, ti sputa in faccia e ti grida con voce tonante: Gheddafi, Gheddafi, convertiti! Poi ti stende sull'altare, ti lega mani e piedi col tunicone bianco del prete, prende a darti un sacco di legnate col crocifisso, tu muori e lui con un calcio ti spedisce dritto all'inferno a bruciare insieme ai diavoli, ai demoni, a Satana. Ma cos'è? Poltergeist. Il corpo di Cristo. Ma è di plastica. Gli adolescenti sono delle bestie, sono crudeli dappertutto, ma a Sinago Milanese di più. E alla periferia di Sinago Milanese sono dei veri e propri criminali. I peggiori però arrivavano dalla Madonna in campagna, case Jescal. Per loro, noi di Sinago City eravamo la zona bene. Sinago City per quelli di Madonna in campagna era via Monte Napoleone. Per quei Terminator, in Fifty Malaguti taroccato, tu eri un pariolino. Ehi tu, ma che c'hai da guardare? Chi? Io? Come ti chiami? Chi? Io? E con chi ti pare che sto a parlare? Aram? Arche? Aram. Che nome è? Armeno. Arche? Armeno. Ah, Armeno. Ar più. Armeno. Ah, oh, staterone di Roma. Roma ladrona. Non ti insultano mica perché sei iraniano. A Sinago City basta essere di Roma per essere terone. Roma ladrona. Lasciatelo stare, no? E questa chi sarebbe? Oh, Sono Miss Sinago City, Neanderthal Man. Oh, Miss Sinago City, me lo ciuccio. Finisci la frase, Neanderthal Man, e ti rispedisco a Madonna in campagna con una sberla. Ma guarda questa. Guardami tu, Neanderthal. Gira quel 50 taroccato e sgomma la volta di Madonna in campagna, che se no ti ci spedisco con una sberla. E Neanderthal l'ha guardata. Ha acceso il 50 taroccato ed ha sgommato la volta di Madonna in campagna con la coda tra le gambe. Come hai detto che ti chiami? Ehi, Aram! Aram ti chiami, no? Sveglia! Oh, sono Terrona anch'io, mi chiamo Carmen, enchanté. Se ti molestano ancora fammi un fischio. Lo diceva la Lega Lombarda, il Terrone è una razza bastarda, Roma ladrona. Quando è nata la Lega, Roma ladrona, il Terrone è una razza bastarda, la Lega. Beh, sono nati lì, a Sinago City, e l'insegnante di storia e geografia, professoressa Colombo, era il capo della Lega nascente. Stamattina interroghiamo. Khomeini, alla lavagna. Kian Aram, professoressa. Io che cosa ho detto? Vai alla lavagna, Khomeini. Oh, mi capisci quando parlo? Ma voi che lingua parlate in casa? Arabo? Almeno questa ti chiamava Khomeini. Storicamente e geograficamente parlando, sempre meglio di Gheddafi. Viva l'Italia, l'Italia che resiste, l'Italia che lavora. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, domenica 12 dicembre 1984. Carmen, Ludovico e te dal 12 dicembre del 1984 siete fratelli di sangue. Quella domenica lì, Ludovico t'ha cavato un occhio, Carmen non è scappata e da allora siete fratelli di sangue. Ludovico aveva avuto l'ideona, Scartocci con lo spillo in punta, prima arma in dotazione ai microcriminali di Sinago City. Ludovico aveva avuto l'ideona e te l'avevi realizzata, come sempre. Appuntamento alla mezzaluna dopo Supercar, freddo polare. Voi tre più Davide molla mista mano. Poi c'era Massimo che correva come il vento. E poi c'erano i gemelli bianco, vestiti uguali. Prima squadra, Ludovico, i gemelli, Carmen. Seconda squadra, Massimo vento, Davide mano di bava, te. 4-3, ma non importa, dai, tanto Carmen è femmina, non conta. Ahia, scema, ma hai visto dove mi hai beccato? Nel sedere. Chiedi scusa. Che ti chiedo io? Allora beccati questo. Che mi hai preso? Fate, quelle tirate a Giorgio? Aram. No. Dì le tue preghiere, Maomettano, sei morto. Fuori tutto il mio corpo, effetto speciale, rivoltato, tutto fuori, taglio da cui sono uscito, guarda, guarda quanto sangue, solo che questa volta esce proprio dall'occhio. Cristo, Cristo, Cristo, dice Massimo e scappa come il vento. Scappano anche i gemelli, simultaneamente. Davide esita. Vorrebbe dire qualcosa, invece se la dà le gambe anche lui. Restate voi tre. Aram, ti fa male? Mi viene da vomitare. A Ludovico vengono le lacrime agli occhi. Che ti piglia adesso? Deficiente? Hai visto che hai fatto? Lo scartoccio ti pende lungo il naso. Non capisci se si è piantato nella palpebra o direttamente nella pupilla. Carmen apre un fazzoletto, avvolge lo scartoccio con cura e strappa. Ti hai fatto male? E le vomiti sulla giacca a vento rossa nuova di zecca. Ma sei una fogna? La cloaca Max, guarda qua che schifo, un pozzo nero. Dove vai, deficiente? Ludovico, e dai. Ma che devo fare? Ludovico è paralizzato, continua a piangere in silenzio. Ma che fai, cretino? Ma tienili la fronte. Dal 12 dicembre dell'84 ho un ematoma permanente sulla palpebra e una macchietta marrone di fianco alla pupilla. Da quel giorno tu, Ludovico e Carmen siete fratelli di sangue e il 12 dicembre è il vostro compleanno. Viva l'Italia! Viva l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura! L'Italia che non ha paura! Viva l'Italia! L'Italia che si dispera! L'Italia che si innamora! Sì, perché l'Italia si innamora anche a Sinago City! Si innamora alla faccia della Lega! Si innamora alla faccia della professoressa Colombo! Si innamora! Se hai 15 anni, prima o poi l'amore arriva! Arriva! L'amore per la mamma! L'amore per Bobby, che per pulirlo abbiamo dovuto tosarlo! L'amore per il tuo Big Truck, carro armato programmabile Mattel! Stessa fabbrica di Big Jim! L'amore per il tuo Big Jim! L'amore per il tegolino quadrato mulino bianco come lo facevano fino all'83, la girella, l'amore per la girella, la morale è sempre quella, far l'amore con girella. Aram, ma quante girelle hai mangiato? Fa malissimo la girella, l'amore per tutto quello che fa male, per tutto quello che è pericoloso. Ludovico Castiglioni. Arem, non voglio più vederti con quello là. Ma papà, è Ludovico Castiglioni. Vai alla larga da quello. Ma papà, Ludovico è figlio dell'avvocato Castiglioni. Gli avvocati sono parassiti. L'amore che diventa passione, intensa, logorante, Ludovico Castiglioni. E tutti i figli degli avvocati si drogano. L'amore che non distingui dall'ammirazione. Non voglio più vederti con quel figlio d'avvocato. Capito, robot? Ludovico si fa la barba per la festa dell'ultima sera. A Ludovico piace prepararsi. Tu e Ludovico avete la stessa età, 15 anni, ma lui sembra vestito anche quando è nudo, ha la pelle bianchissima, bianco. E tu, Pistolino, mi spiace dirlo, sei basso, peloso e nero come un tiramisù splafonato. Almeno fossi nero come una sacher, alta, come un senegalese. Insomma, nudo davanti a Ludovico non ti ci metteresti mai. Ehi, Pistolino, bello mio, ma non hai niente da fare? Tirare dentro gli sciri scarponi che saranno asciutti, no? Ok, adesso vado, calma, calma, calma. Però non ti schiodi da lì, seduto sulla tazza del cesso a guardare Ludovico, nudo, come un gladiatore che si prepara per l'ultima sera della settimana bianca. Bianco, neve, sciare sulle piste, l'ultima sera, serata in discoteca senza professori. Vacci piano stanotte, Pistolino. Hanno finito la candeggina. Ludovico, sono 5 anni che non bagno più il letto. 5 anni! Ah. Già 5 anni che non la fa più a letto, datemi un premio! Ho smesso di farla a letto a 10 anni! Ludovico è un imitatore diabolico. Oh, Pistolino, ti ricordi quella volta alle elementari quando l'hai fatta a letto l'ultima notte della settimana? Ludovico! E la Simeoni non importerà, basta che metti la lenzuola da una parte! Ludovico! E per un attimo senti che stai per ricominciare a fartela addosso. A 15 anni Ludovico sorride allo specchio. Ludovico, neanche una drag queen sta davanti allo specchio tutte ste ore. Ehi, Pistolino. Che poi neanche ce l'hai la barba. Pistolino, ti prego, vuoi farti la Carmen stasera? Oh sì, Carmencita mia. E sai che anche stasera lui si filerà la Carmen, mentre te... Ma com'è possibile che l'espressione basso, peloso e nero ti vada tanto a pennello? No, no, no, no, no, dai, ci deve essere un altro te stesso, alto, biondo, desiderabile, ed appena qui, sotto la prima pelle, basterebbe un niente, un piccolo apriscatole, un apripelle. Senti, Pistolino, e se andassi a illuminare di immenso qualche altro posto? Un uomo ha bisogno della sua privacy, chiaro? Ok, ok, sayonara, auf Wiedersehen, goodbye, bye. Vai, vai, vai, vai, ma proprio non ce la fai a uscire da quello stramaledetto cesso? Allora, Pistolino, povero bigolo sbigato negro, dico sul serio, telare, telare, via, telare verso nuove avventure, tu, Alibaba e 40 ladroni. Ma niente, niente, ancora non ci riesci a sturarti da quel cesso, ma perché? Perché? Perché ti amo, Ludovico Castiglioni, ti amo e ti invidio. Vabbè, dai, andiamo, Pistolino, andiamo che stanotte ti faccio perdere la verginità. Sì... Sì, sì, Ludovico Castiglioni, fammi perdere la verginità, fammi tuo, strusciami, strusciamo come due struzzi, struzzami, come ti struzzi la Carmen, e lei, lei che si muove appena appena gli occhi, proprio come una diva, la diva del sabato sera, c'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega i giudizi degli altri, non fa neanche una piega, quello è il maschio più bello, non toccatemi quello, ma il maschio più bello sei te, Pistolino, è te che vuole, è te che punta come un missile cruiser puntato su Baghdad, come un Jumbo 747 puntato contro le Twin Tower, sei te che vuole, balla. Balla, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, e anche te balli e Carmen ti guarda, guarda te che balli, ma te non hai mai ballato, Pistolino? Ehi, Ludovico, guardalo, guarda là. Ah, sta ballando. Ma cosa gli hai fatto prendere, Ludovico? Ma niente, cosa vuoi che gli ho dato? No, no, qualcosa gli hai dato. Vabbè, mezza pasticchetta. Ma lo sai che Aram non è abituato. Davide, ti prego, toh, prendine mezzo anche tu. Ma guardalo, Ludovico, guardalo. Sembra te, guardalo. Guardami, guardami, Carmen, guardami, anch'io ballo, guardami. Come divento alto, biondo, con gli occhi azzurri e bianco. Bianco e nero, grigio, olivastro, verdastro, verde, verde acqua, verde mare, verde azzurro, blu, blu, blu, blu, come i puffi, rosso, come i comunisti, giallo, come la pipì. Ah, oddio, oddio, calma, calma, calma, calma, devo concentrarmi. Sì, che se mi concentro bene, bene, bene, la posso tenere, sì, sì, posso farcela. No, no, e se poi scappa, cosa faccio se poi scappa? Devo concentrarmi più forte, che se mi concentro bene, bene, bene, anche se scappa, posso inglobarla tutta nelle mutande, tutta nei pantaloni, sì, tutto l'odore dentro i pantaloni. Carmen non sentirà niente, nessuno sentirà niente, nessuno deve sentire, nessuno deve sapere. Ma Aram, ma che hai tutto sto umido? Niente, Carmen, niente, vieni qui, abbracciami. Ma come, dai. Ma che abbraccio, abbraccio? Ma sei tutto umido? No, no, no, no, no, ti stai sbagliando, dai, ma dammi un bacio. Ma guarda, guarda, no, ma guarda, no, sti negri, ma, no, ma vai, Carmen, devi andare. No, no, no, aspetta, Carmen, aspetta, Carmen, su. Z- Sì, signora maestra. Hai fatto tutto? Sì, signora maestra. Hai lavato i denti? Sì, signora maestra. Alla faccia? Sì, signora. Alle orecchie? Sì, signora maestra. Hai fatto tutta la pipì? Sì, signora maestra, l'ho fatta tutta, Ludovico Castiglioni. Non vedo i suoi occhi azzurri, ma li sento. Io amo te, Ludovico Castiglioni. Amo la tua perfezione. Ti invidio perché voglio essere come te. Voglio essere te. Te che non te la fai sotto. Te che vieni giù carezzando la pista meglio di Alberto Tomba. Te che sei l'eroe della settimana bianca. Te che fai ridere tutti quanti con l'imitazione della signora Simeoni. Oh, raga, la signora Simeoni, la vecchia maestra delle elementari, ve la ricordate? La signora Simeoni. Oh, raga, e quando Carmen gli ha messo la mano nei pantaloni, Ram era già venuto. La signora Simeoni, che è uguale spiccicata alla professoressa Colombo. E che vieni la prima volta che una ragazza ti mette le mani nella patta, pistolino può anche starci. Ma che subito dopo le pisci in mano, no! È troppo! Carmen, sono tutte uguali, maestre, professoresse, Carmen, tutte uguali. Ludovico Castiglioni sfila in camerata e tutti quanti dietro a ridere, a incoraggiarlo, a fare il tifo. Ludovico! Ragazzi, adesso basta! E che cos'è questo baccano? Su! Tutti a dormire che è tardi, eh? Anche te, Ludovico. Ma devo andarci da solo a dormire, professoressa? Dai, potrei essere tua madre. Dai, dai la buonanotte ai tuoi compagni e fila a letto, su. Sì, ok, va bene, professoressa. Buonanotte, compagni. Ecco. Buonanotte, professoressa. Bravo. A te. Ludovico Castiglioni, che sei così lontano da me, che ho paura di muovermi, di parlare, di ridere, anche solo di respirare. Ho paura di tutto, paura e vergogna, vergogna di avere paura e paura di avere vergogna. Perché non sono te? Rispondimi. Perché non sono te? Sai cos'è questo? Occhio di lince. Mie, hashish, che cavolo deve essere? Oh, non l'ho chiesto a te, Carmen. L'ho chiesto al pistolino. Sì, e quanti soprannomi gli devi dare? Aram si chiama, Aram. Ma tu hai già fumato l'hashish, pistolino? Io... Ludovico, sì, è vero, Superman? Oh, raga, io credevo di avervi portato un regalone per il nostro compleanno. Era il primo anno che Ludovico si ricordava del vostro compleanno. Oh, ma se vi fa schifo me lo fumo da solo, eh? 12 dicembre 1987, avevamo 15 anni ed eravamo fratelli da tre. Ehi, questo viene dalle tue parti, pistolino? Dall'Afghanistan. Iran, Ludovico. E io cosa ho detto, eh? Vedi, pistolino, questo si riconosce dal marocchino perché è più scuro e più puro. Oh, raga, per quest'unghia di paradiso io ci ho investito 10.000 lire. Alla mezzaluna, freddo, come 6 anni fa, vento, che fischia tra gli alberi nudi, Ludovico celebra la cerimonia, scartoccio di stagnola. Svuota la goluasca, mensita. Il tabacco cade nella mano di Carmen. Tu sbriciola l'asci, Sharan. Ti ha chiamato per nome. Dammi qua, dai. Ludovico accarezza la miscela, la reinfila nella goluas, accende, aspira, passa lo spino a Carmen. Carmen si ferma, ti guarda, mette le mani a palloncino con lo spino tra l'anulare e il mignolo. Dai, tira dalle mie mani. Tu appoggi le labbra alla fessura che Carmen ti ha lasciato tra il pollice e l'indice. Oh, che c'è? Hai le mani fredde e profumate. Ha le mani profumate. Ludo, zitto. Dai, tira ancora, Ram. Com'è, pistolino? Mi viene da vomitare? No. Un'altra volta. No, mi devo togliere la giacca. Sì, così ti vomita sulla maglia. Scemo. Ehi, pistolino, finalmente hai realizzato il tuo sogno. Sei diventato bianco. E Michela? Michela! C'era già anche lei! Michela, ciao, belle tetine rimonti! Aram? Cioè, senti, volevo chiederti, ma è vero che non sei battezzato? E come fai? Cioè, no, senti, però questo me le devi dire, cioè, io devo troppo saperlo, però mi devi dire la verità, Cioè, tu devi essere sempre sincero con me. Cioè, senti, Aram, ma sei circonciso. E come fai? Michela, ciao, belle tettine rimonti, era bellissima, non ti avrebbe neanche visto se fossi stato battezzato e non fossi stato circonciso. Solo che tu non sei ebreo, non sei musulmano, non sei circonciso, tua mamma è di Roma, sei battezzato. Ma tanto, Michela, ciao, belle tettine rimonti, aveva pochissime possibilità di scoprire che eri battezzato e purtroppo ancora meno di scoprire che non eri circonciso. Cioè, no, non siamo mica sempre stati a Sharm. Cioè, io volevo stare sempre in acqua, che c'è un'acqua limpida, si vedono tutti i pesciolini. 1987, andare a Sharm e Sheikh, roba da pionieri. Sì, ma poi siamo stati anche al Cairo, eh. C'è un caldo, ho mangiato come voi altri. Oh, però è buono il kebab. Ah, te però non hai la più pallida idea di che cosa stia parlando, visto che il tuo piatto tipico sono i rigatoni alla pagliata. E il couscous? Cioè, mitico. Chissà che buon couscous che fa tua mamma. Cioè, no, perché si sa che i cibi fatti in casa sono sempre meglio di quelli dei ristoranti di lusso. No, perché... Cioè, al Cairo ci sono anche ristoranti di lusso. La morale è sempre quella, far l'amore con Girella. Tu, nel 1987, non hai mai assaggiato né kebab né couscous. Sei cresciuto a Girella e Tegolino Quadrato Mulino Bianco. Sì, ma le preghiere... Troppo, dai, ma quanto pregate, Ram? Cioè, 5 volte al giorno a me sembrano troppo. Cioè, poi, dopo un po', lui non ti ascolta nemmeno più, no? Lui chi? Ma Dio, no? Cioè, c'ha da fare anche lui, no? Vabbè. Un sacco, no? C'ha da fare. Cioè... Io non so neanche cosa dirti, ma a me sembra che sia un po' una cosa... Sì. Cioè, hai capito, no? Sì. Quando parla Michela, ciao ciao belle tetine rimonti, non capisci mai un accidente riflitto, ma sei talmente terrorizzato. Sì, Michela, tanto lei non può nemmeno immaginare che tu possa contraddirla. Cioè, poi quanti arabi... Cioè, che parlavano l'arabo. Cioè, un po' come te i tuoi, no? Vabbè, dai, ciao, ci vediamo. Ciao. E a 16 anni non ci provi nemmeno più a spiegarglielo. Il Cairo, Teheran, per alcuni, dalla Jugoslavia in avanti è tutta Arabia Saudita. Poi, pistolino? Ma quella lì non era Michela ciao ciao belle tettine rimonti? Poi, Davide, ma l'hai vista? Sì, che l'ho vista. Era proprio lei, vero Ludovico? Era proprio lei, vero Aram? Ai, il nostro pistolino corteggiato da Michela, ciao ciao belle tettine rimonti, ai. Allora, ma cosa vuoi Ludovico, allora? Allora, pistolino, quando arriva il momento buono vedi di non pisciarle in mano. C'è una qualunque guerra in un qualunque posto, nel buco più sperduto del mondo, tu sei di quel paese là. Gli americani ce l'hanno con Gheddafi, ecco, ce l'hanno con te. Poi ce l'hanno con Saddam. Ehi, Saddam Hussein. Kian Aram, professoressa. E io cosa ho detto? Finalmente gli americani sono venuti a farvi il mazzo, eh? Porca zozza di una professoressa, io sono iraniano, Gheddafi è Libia, Saddam è Iraq, non c'entra niente! Tu neanche dicevi Iran, dicevi Persia, persiano! Cioè, ma esattamente che cosa vuol dire? Cioè, scusa, sai, ma per me dalla Jugoslavia in avanti è tutta Arabia Saudita. Anche per gli amici sei comunque il nemico. Alla prima guerra nel Golfo avevi 18 anni, iracheno, iraniano, uguale, tutto uguale. Cioè, ragazzi, si deve troppo andare a questa manifestazione. Vero, Michela, si deve troppo andare. Che ne sai tu, Michela, di guerra, di golfo? Vero, Carmen, che ne sai tu, Michela? Cioè, scusate, io sono stata a Sharm el Sheikh. Vero, è stata a Sharm el Sheikh. Ecco, che cavolo c'entra Sharm el Sheikh con... Cioè, Carmen, ma perché devi sempre essere così aggressiva nei miei confronti? Cioè, lasciatelo dire, emani veramente energie negative, sai? Vero, Carmen. Sì, Davide, muto! Vero, Davide, muto. Cioè, lo vedi, Carmen, che sei aggressiva, povero Davide? Sì, Michela, ma te li dovevano lanciare in testa a te, Cruiser, guarda, no, a Baghdad, in testa a te. Cioè, guarda, mangiare. Io il missile di Tom Cruiser me lo prenderei, vero Ludovico, amore? No. Per il momento meglio stare contenti del mio di missile, ok? Che umorismo raffinato questo, meno male che arriva il comunque, pullman, guarda. Comunque, se proprio volete sapere la ragione di fondo per cui io vengo, anzi partecipo alla manifestazione... Nino, la vogliamo sapere! La ragione di fondo per cui io partecipo a questa manifestazione contro la guerra in Iran è la solidarietà con Aram e il suo popolo. Sì, ma la guerra in Iraq... La solidarietà, ma che ne sai dare la solidarietà? La guerra in Iraq, ragazzi, la guerra in Iraq! È in Iraq, la guerra! Iraq, Q di quadro, Iran, N di Napoli, iracheno, iraniano, iracheno, uguale, tutto la stessa zuppa con quella faccia e il tuo sapore medio orientale, zuppa medio orientale, ingredienti, prendete un ragazzo, nascetelo a Roma, crescetelo a Sinago Milanese, quando comincia ad imbiondire, aggiungete un padre iraniano, una madre romana, una presa di Lega Lombarda e lasciate stufare il tutto a fuoco lento a Sinago City per circa 20 anni ed ecco la vostra zuppa medio orientale pronta da servire, mi raccomando, ben calda, anzi bollente, fiammeggiante, ma... Attenzione, cotta. Aram chi Kian, A-R-A-M di Mantova, K-I-A-N di Napoli. No, no, non Kiam, Kian finisce con la N di Napoli e Aram finisce con la M di Mantova. Esatto, sì. No, no, Kian è il cognome e Aram è il nome. Sì, certo, ne sono sicuro, scusi, è il mio nome. Italiano, certo, certo, italiano. Ma perché, scusi, cosa c'entra? No, guardi, la mia carta d'identità sta benissimo, non ha nessun problema, in perfetta forma. Passaporto arabo. Quale passaporto arabo o passaporto d'Egitto? Le ho detto che sono italiano. No, io non ho pregiudizi nei confronti di arabi o egiziani, neanche nei confronti di cecoslovacchi, ungheresi, groenlandesi. È solo che, essendo io italiano, mi pare quantomeno presumibile che lo sia anche il mio passaporto. No, non ce l'ho il passaporto io. Come, perché? È lei che ha parlato di passaporto, io ho la carta d'identità. Sì, va bene, certo, come dice lei, ognuno è libero di avere il documento che vuole. Senta, scusi, io non voglio polemizzare e neanche discutere con lei di questioni razziali o massimi sistemi, è solo che sono italiano. C'è scritto anche, guardi, sulla carta d'identità. Ma come complimenti per come parlo bene l'italiano? Certo che parlo bene l'italiano, sono italiano. No, no, non sono un immigrato e neanche un profugo. Ho sempre avuto la cittadinanza italiana, ho sempre vissuto qui, in Italia. Ma scusi, crede che sia sbarcato col gommone l'altro ieri? Professoressa, no, senta, scusi, allora mi ascolti un secondo. Allora chiami il preside? Ma professoressa, lei mi conosce da 5 anni. Sì, no, niente, è che mia mamma ha lavato la carta d'identità dentro ai pantaloni. Ma se legge la carta d'identità, si legge ancora benissimo. Professoressa, sono io, Aram, glielo dica lei. Sì, io mi calmo, ma lei faccia il membro interno. No, io non voglio niente, cioè voglio solamente dare l'esame di maturità come tutti i miei compagni. Sono calmissimo, ma io? No, ma no, non alzo la voce, ma figuriamoci, io non farei del male ad una mosca. Non voglio fare del male a nessuno e neanche voglio insegnarle il mestiere. Ma certo, va bene, lei è il presidente della commissione e io sono il candidato. E voglio solamente dirle che mi chiamo Aram, con la M di Mantova, Kian con la N di Napoli, e sono italiano. E sono stanco, offeso, umiliato, disgustato, defraudato della mia dignità, stuprato nei miei diritti civili, cancellato, reso invisibile. Ma io esisto, voglio che lo sappiate che esisto, non potete mica cancellarmi, voglio che mi ascoltiate, muti, muti, mentre io vi vomito addosso tutto il mio odio, il mio rancore, il mio disprezzo, il mio schifo! Cinquanta? Cioè, non riesco a crederci. Non hai studiato un nientissimo tutto l'anno e ti hanno dato 50? Dai, Pistolino, di la verità, dove l'hai copiato quel discorso? Oh, sembrava un film di Spike Lee! Muti, mentre io vi vomito addosso tutto il mio odio, rancore, il mio disprezzo, il mio schifo! Gli hai detto vi vomito addosso il mio schifo! Ti amo, Aram, sei il mio supereroe! Cioè, Aram si è fatto un gran numero, cioè io sono troppo contenta per lui, però... Però cioè dai, non è giusto. Io ho studiato tutto l'anno e mi hanno dato, cioè mi hanno dato 40. Cioè raga, questo è razzismo. Questo è maschilismo. Ma cosa dici, Michele? Erano tutte femmine in commissione. E questo voler giustificare sempre comunque Ram solo perché è extracomunitario. Ma io sono italiano. Dare sempre comunque ragioni ai diversi, sapete come si chiama? Ma che si chiama? No. Sì, si chiama buonismo. No, si chiama buonismo. Sì, buonisti si è. No, ma tu sei stupida. Ma io non sono diversa. Ma che cosa stai dicendo? Ma non ha senso. Ascoltate, dai. Buon 1993! Buon anno! Buon anno, Carmen! Buon 1993, Ludo! Buon anno, Davide! Buono, Davide! E non mettermi le mani in faccia, buoni, negli anni 90, dopo la guerra in Iraq, eravamo tutti più buoni, no? Bill e Hillary, erano buoni, belli, una coppia felice, buonismo, si respirava bontà, politically correct, anche a Sinago City, cioè, a Sinago City no, a Sinago City sempre tutto il contrario, se il resto del mondo era buonista, noi eravamo, cos'è il contrario di buonista? Cattivista, no, a Sinago City erano cattivi e basta, i commercianti erano diventati cattivi, il postino era diventato cattivo, i cani erano diventati tutti Rottweiler e le macchine SUV. Gli agenti immobiliari erano cattivi, operai non ce n'era quasi più e i pochi rimasti erano diventati cattivi, i geometri diventavano sempre più cattivi, era cattivo persino il parroco. Gloria, gloria a Dio, gloria nell'alto dei cieli. Cari parrocchiani, rifuggite dalle moto, rifuggite dal buonismo che va tanto di moto. Secondo i buonisti si deve essere misericordiosi nei confronti di tutti, indistintamente, senza badare all'atteggiamento interiore. Se qualcuno non si uniforma viene tacciato d'essere un cattivo cristiano o un insensibile ai valori umani. Ma Gesù, che per noi crediamo... Ma lo senti che cosa dici? Dai, Aram, andiamoci. Aspetta, aspetta, voglio vedere fin dove arriva, aspetta. Gesù è la misericordia incarnata ed è venuto per salvare i peccatori. Ma mica tutti, solo quelli che si pentono. Gesù sulla croce, nell'attimo fatale, non ha mica salvato tutti e due i ladroni. Tu, oggi stesso, sarai con me in paradiso. A chi l'ha detto? A quello che si è pentito, mica l'ha detto all'altro. I pani e i pesci che ha moltiplicato Gesù non l'ha mica offerti a tutti indistintamente. I pani e i pesci gliel'ha dati solo a quelli che li andavano dietro, digiuni da 3 giorni. Chi non vuol lavorare neppure mangi, dice San Paolo. E la Chiesa ci insegna che quando parla San Paolo è parola di Dio. Il buonismo. Dai, Rama, andiamoci. Io mi sono rotto, dai. Parla piano, Ludo. Anch'io però mi sono rotto. Andiamo, dai. Vabbè, dai, via. E questo è contro Dio. Ragazzi, era dagli anni 80 che non mettevo più piede in una chiesa. Ma mica mi credevo che il parroco era diventato un fondamentalista cattolico. Cioè, Carmen, guarda che hai voluto tu che venissimo alla messa di mezzanotte. Ma dico, vi rendete conto? Ma com'è possibile che gli lascino sparare delle robe così, sì, così incredibile? Può fare quello che vuole, cioè, siamo in democrazia. Ma com'è possibile? Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo. Per noi gli anni 90 sono stati gli anni del com'è possibile. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo. Filosofia? Ma com'è possibile, Aram? Che vai a farci a filosofia tu, ma dai, ma com'è possibile? Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo. Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo. Per noi gli anni 90 sono stati gli anni del com'è possibile. Ma com'è possibile che siamo in mano a Totò Schillaci? Ma com'è possibile, Ludo, economia e commercio? Ti ha sempre fatto schifo. Ma io... Cioè, ragazzi, com'è possibile che non capite? Ludo ha delle responsabilità nei confronti della famiglia. Sì. Cioè, suo padre è avvocato. Senti, Nuovo Cinema Paradiso. Per Nuovo Cinema Paradiso l'Oscar attorna a Tore. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Com'è possibile? Non tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non da fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Qualsiasi cosa farai, amala. Come amato la cabina del paradiso. Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? L'8%? È mia ferma intenzione di impegnarvi in battaglia finché la Padania sia indipendente. L'8,6% alla Camera e l'8,2% al Senato, 25 senatori e 55 deputati. Scusa, ma a livello nazionale? Sì, nel nord, Lombardia e Veneto hanno preso il 40%. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Ammanza! Ammanza! In Africa! Com'è possibile che Nelson Mandela sia sopravvissuto 28 anni in carcere? Aram, com'è possibile? Ma Ali Khamenei è diverso da Khomeini, sta democratizzando l'Iran, poi... Poi? Poi è di Mashhad come mio padre. Ma com'è possibile? Beh, mio padre dice che Khamenei gli restituisce le terre ai pazzi. Ha ragione, Aram, com'è possibile? E comunque tu in Iran non ci vai. Ma che tipo di imbarcazione era? Una nave da pesca? Sì, sì, E voi date l'allarme per una barca di pescatori? Signor tenente, noi avevamo l'ordine di... Mediterraneo. Mediterraneo. L'Oscar a Salvatores, ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile? Oh, l'ha detto in Parlamento, ha detto che tutti i partiti si spartivano il 10%. E chi è senza peccato scagli la prima pietra. Vero, vero. Siamo ormai da resto di fronte ad un'azione generalizzata che mira non più a colpire corruzioni, ma a criminalizzare il Partito Socialista e buona parte del sistema politico. E che non è... Ragazzi, l'ha detto in Parlamento. Ma dai, ma com'è possibile che si spartiscano solo il 10%? Cioè, ma non hai proprio nessuna ambizione. Cosa? Cioè, com'è possibile, Carmen, che ti accontenti di pulire il di dietro con i bambini puzzolenti? Ma com'è possibile che non ci arrivi tu, Michela? Io voglio andare a stare da sola. Com'è possibile? E al nido? Mi pagano. Com'è possibile? Ogni mese. Com'è possibile che non ve ne freghi niente? 1 milione di morti, ragazzi. Avete in testa solo i vostri attici a 10 milioni a metro quadro. Ah, cioè, Aram, tu sei il più sensibile alle disgrazie del terzo mondo, ma com'è possibile che non capisci che per noi il Ruanda è lontanissimo? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Oh, raga, vi presento il dottor Davide Guerra. Complimenti, grazie. Dai, dammi la mano, dai Davide, la vita è bella. La vita è bella. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Tier geworden. Si vince a 1000 punti, il primo classificato vince un carro armato, vero? Lo Scarabinini, ma com'è possibile? No, il nome a Dario Fo. Ma com'è possibile? All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, no. Qui, sulla schiena. No, ma dai, Michele, ma com'è possibile che anche tu con quella affare? Cioè, Carmen, a me mi serve per lavorare, oppure mai ce l'hanno tutti? Pronto? Tahiyyatu lillahi wassalawatu attayyibat. Assalamu alayka ayyuhan. Ma com'è possibile? Ma Khatami è diverso da Khamenei, sta democratizzando l'Iran e poi... Poi? Poi è un filosofo come me. Filosofo? Tu hai dato un esame in 7 anni, Aram. Ma com'è possibile? Beh, mio padre dice che Khamenei gli restituisce le terre e i palazzi. Ma com'è possibile? Guarda che il mercato immobiliare in Iran... Che me ne frega a me del mercato immobiliare in Iran, Ludo? Aram in Iran non ci va. Dear comrades and friends, I hope... Gli anni 90 per noi furono gli anni del come è possibile, come è stata possibile la scomparsa di nazioni, come l'Unione Sovietica, come la Jugoslavia. E di continenti, come Madre Teresa di Calcutta. Come è stata possibile l'emersione di una civiltà chiamata Internet. La scomparsa di idee come Audrey Hepburn e Rudolf Nureyev. Come è stata possibile l'apparizione delle 3B? Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Bush, Blair e Berlusconi. Quale nefasta Bush, congiunzione astrale ce li ha paracadutati addosso? Tutti e tre insieme negli anni 90. Ma soprattutto, come è stato possibile che negli anni 90... Mentre Davide quasi quasi inventava Google e andava ad abitare a Silicon Valley, mentre Ludo e Michela Ciao Ciao Belle Tettine diventavano facoltosissimi vendendo case in società e Carmen diventava coordinatrice dei servizi alla persona di Sinago City e viveva sola per tutto il decennio? Com'è possibile che io ho dato un solo esame di filosofia? Su Wittgenstein. Cosa ho fatto per tutti quegli anni 90, Carmen? Ma che te ne frega di Wittgenstein? Sai qual è il punto, Carmen? È che io non sono come voi. Aram? No, lasciami dire. Lo so io e lo sapete voi. Io non sono come voi, sono partito svantaggiato. Perché sei extracomunitario? Peggio. Io sono nato qui. Sono la seconda generazione. Sono un italiano extracomunitario. E per questo saresti partito svantaggiato? Indietro di 10 passi. E io che sono donna, quanti passi indietro sono partita, deficiente? Tu non capisci. Io capisco che questi discorsi sono l'anticamera delle bombe. Cosa credi che avessero in testa quei deficienti che hanno messo le bombe a Londra e a Madrid? I tuoi soci di seconda generazione. L'illusione di essere partiti 10 passi indietro. Ma è un'illusione, Aram. Io sono donna e mio padre è siciliano. Tu sei romano e tuo padre è iraniano. Davide è laureato in informatica e suo padre è un elettricista. Siamo tutti di seconda generazione. Wittgenstein dice che la filosofia serve a liberarci dalle illusioni e dai sogni. Lo vedi che non hai imparato niente a filosofia. Wittgenstein pensava che i sogni rivelano le paure. Ma cosa aveva in testa sto Wittgenstein? Carmen, io ho una paura tremenda di andare ad abitare da solo. Ehi, pistolino, quanto sarebbe diversa la tua vita se smettessi di avere paura dei tuoi sogni. I sogni sono interessanti solo per gli indovini e per gli stupidi. Sempre Wittgenstein? Sempre Wittgenstein. Ma a casa tua, con tua madre e tuo padre, a colazione, ve li raccontate i sogni? Mai fatto colazione insieme io, mia madre e mio padre. La colazione è il festival dell'inconscio, bisogna farla insieme. Ma io sto andando ad abitare da solo, perché tu non vuoi che venga ad abitare con te. Ma io penso di venire a fare colazione da te tutte le mattine. Non ho mai sentito un argomento convincente sull'esistenza dell'inconscio. Mia, Aram, parli come Wittgenstein. Se non parlo più come Wittgenstein, posso rimanere ad abitare con te? No. Che ore sono? 3:15. Dormiamo. Pensa quante persone stanno dormendo adesso a Sinago City. Quelli che hanno appena fatto l'amore. E dai. Come noi. Anche i carcerati in galera stanno dormendo. I malati, i miei bambini nel nido. E tutti che sognano. Pensa alla quantità industriale di inconscio che stanno producendo. Una colata enorme. Una colata enorme di desideri, di paure, che viene fuori da tutti questi corpi che sognano ogni notte. Pensa ai sogni dei parroci fondamentalisti. Wittgenstein? Cosa sognava Wittgenstein? Mica lo insegnano all'università. E Davide? Il dottor Davide Perotti. Oh, mi ha scassato per 20 anni, adesso che lavora in America mi manca. E Ahmadinejad? Chi? Ahmadinejad, ignorante, il presidente dell'Iran. Cosa deve sognare quello? Bombe atomiche, no? E le 3B? Oh. Eh? Cosa sognano? Quelli spero che abbiano solo incubi. E Ludovico? E Michela? Come saranno i sogni di Ludovico e Michela? Cioè, scusa, Aram, come vuoi che siano i miei sogni? Non lo so. Cioè, no, ti prego, prego, Michela. Ma come ti prego? Per favore, stai sognando. Non sognare. No, non mi interrompere i sogni. No, Michela. Sei negativo. No, sono negativo, Michela. Michela, ti sogni, non lo so. Cioè, no, ti prego, prego, Michela. Ma come ti prego? Per favore, stai sognando. Non sognare. No, non mi interrompere i sogni. No, Michela. Sei negativo. No, sono negativo, Michela. Michela, ti prego. Sono io per te. Circles, it's a very, very bad world. Bad world. Eccolo, sta arrivando, eccolo. Aram. Bastardi, bastardi schifosi. Ma dai, Aram, non lo sapevamo. Senti, Aram. Non toccarmi! Ehi, allora? Ce le siamo prese anche noi. Addio al celibato. Ma non siamo mica americani! Sì, ma lo fanno tutti. Lo fanno i pecoroni come te. Dai, calmati, Ram. T'ho detto non toccarmi! Ma... non toccarmi! Sei tu che hai voluto venire in questo posto qua. Ma vengono tutti qui per l'addio al celibato. Ma davvero questi sarebbero i miei amici? Beh, dai, questi qua che mi portano in una discoteca con due fascisti di guardia che mi chiamano Bin Laden, non mi fanno entrare. Dai! Voi non siete amici, voi siete collaborazionisti siete. Adesso non esagerare, Aram. Io non devo esagerare? E chi è che me lo dice che non devo esagerare io? Quello che ci voleva entrare da solo in discoteca. Ma era solo per buttare l'occhio. E il povero negro cosa faceva? Aspettava fuori Buana? Adesso basta, Aram, volevano solo perquisirti. Per questi tempi non è strano. Volevano solo perquisirti, ma solo l'arabo volevano perquisire, davvero? Dai, fammi vedere quest'occhio, dai. Fammi vedere quest'occhio, tanto me l'hai già cercato tu da piccolo, quest'occhio. È sempre lo stesso? Anche te, Davide, sei sempre lo stesso. Allora come ora, appena c'è puzza di sangue, scappi. Dai. Non sono scappato, sono andato a chiamare la polizia. La polizia! Mica potevo immaginare che arrestavano te. Ma non l'hanno arrestato. Ragazzi, fermi, concentratevi un attimo, fate il vuoto intorno a voi, dentro ai vostri cuoricini. Guardatemi! Sono arabo. Non sei arabo, sei italiano. Se avessi la barba, sarei Bin Laden. Bin Laden è alto. Davide, ti prego. Se un arabo vuole entrare in una discoteca per bianchi, ma chi portano dentro? I gorilla fascisti? Ma poi ti hanno lasciato andare. Dopo 3 ore! E dopo che è venuto a liberarmi il super padre del mio amico Buono Bianco! Credevo di averti fatto un favore a chiamare mio padre. Sentite, ragazzi, sentite, sono le 2 passate. L'addio al celibato lo consideriamo celebrato. Ha fatto la rima. Io mi sono fatto 10 ore di aereo per tornare e mi sta prendendo il jet lag. Vado a nanna. Voi restate a Milano? Vabbè. Ci vediamo domani mattina a Snago City, davanti alla chiesa, e buonanotte. Buonanotte, Davide. Buonanotte, Aram. La migliore della mia vita. Allora vado. Vai, Davide. Vado. Senti, Aram, io domattina avrei un impegno, e anche tu. E se andassimo a casa? Io non mi muovo di qua finché non esce mio padre. Ma tuo padre esce domattina. Ok, sto seduto qua su questo gradino al commissariato fino a domattina. Senti, ma cosa diavolo è successo là dentro? Non te l'ha detto tuo padre? Ma che, è uscito imbufalito, mi ha detto solo di aspettare te, che stavano per rilasciarti, ma tuo padre lo trattenevano fino a domani mattina. Per me la chiudono qua. Lui invece lo denunciano. Ma sei tu che volevi entrare in discoteca? Sì, ma poi mio padre è venuto in commissariato per tirarmi fuori. Ah, e di solito i padri che vanno a tirare fuori i figli dal commissariato li denunciano. È tutta colpa di tuo padre. Ma mio padre è venuto a tirarvi fuori tutti e due. E invece quell'idiota ha fatto arrestare mio padre. Non chiamare idiota mio padre. Cioè, fammi capire, sono 30 anni che quello ti tratta come un burattino, ti ha fatto fare economia e commercio, ti fa fare l'agente immobiliare, tu lo difendi. Lo difendo, l'ho chiamato perché non sapevo come fare. Ludo, c'hai 30 anni e quando non sai cosa fare chiami quell'idiota di Papalino. Ti ho detto di non chiamare idiota mio padre, se no dico che tuo padre è un deficiente. Infatti mio padre è un deficiente. Io non ho nessun problema ad ammetterlo, perché io non dipendo da mio padre come te. Io non mi offendo se dai del deficiente a mio padre, perché è la verità. Tuo padre è un idiota, mio padre è un deficiente. Avresti dovuto vederli là dentro. Ecco appunto, mi vuoi dire cos'è successo dentro a quel commissariato? Quante notti passate a parlare con Ludovico, ma quante notti? La prima volta che sei andato a dormire a casa sua, te la ricordi ancora? Quanti anni avevi? Tutta la notte per decidere se Goldrake avrebbe battuto l'uomo ragno. Quante notti, quante le notti a parlare in tenda al campeggio del WWF. Ma l'ornitorinco vive in Australia, eppure io le impronte le avevo viste. Quante notti, quante notti, le notti dell'occupazione al liceo, l'autogestione, quante notti, e le notti sotto casa sua col finestrino abbassato per far uscire il fumo, le notti dei compleanni, ad accompagnarti a casa, fatti persi. Ma cosa si dice la gente con quel livello di alcol nel sangue? Quante notti, notti innocenti degli ultimi anni 70, notti ingenue, pure, caste, notti smaniose degli anni 80, notti impazienti, notti magiche degli anni 90, notti arrabbiate, generose, calde. Oddio, ne hai passate di notti a parlare con Ludovico Castiglioni. Ma nessuna notte fu singolare come quella passata sul gradino di un commissariato ad aspettare che rilasciassero tuo padre perché il padre del tuo amico lo aveva fatto arrestare. Mia Ram, meno male che non c'ero, sennò li facevo a pezzi quei poliziotti. Carabinieri, Carmen. Fa lo stesso, gli sbirri sono sbirri. Meno male che non c'eri. Se c'è una cosa che non ho mai potuto neanche immaginare è qualcuno che mette le mani addosso a mio padre o a mia madre. Ma com'è potuto succedere? Dopo mezz'ora che ero dentro vedo arrivare mio padre. E chi l'aveva chiamato? Ludovico. Quello non cresce mai, e quando è nei guai chiama papalino. Quello che gli ho detto anch'io. Ma di solito chiama il suo. Infatti dopo un'altra mezz'ora è arrivato anche l'avvocato Castiglioni. E perché? Perché mio padre non aveva i documenti. Cioè, viene in commissariato e non si porta i documenti? Aveva la carta d'identità, ma mia mamma gliel'aveva lavata dentro i pantaloni. E la patente? Non ce l'ha la patente, tanto guida sempre mia madre. Un extracomunitario che si presenta per tirare fuori di galera suo figlio senza patente e con la carta d'identità illeggibile. Mio padre è cittadino italiano da 30 anni, Carmen. Tuo padre è un idiota. Non dire idiota a mio padre. E quindi Super Ludo ha finalmente potuto chiamare il super padre Buona Bianco in soccorso dei poveri negri. È quello che ho detto anch'io. Solo che prima che arrivasse Super Buona Bianco, mio padre l'ha fatto. No. Eh sì. Quando il maresciallo gli ha detto che la carta d'identità era tutta sbiadita... L'ha fatto. Sì, ha cominciato a urlare che lui era Manu Cercan. Oh no. Sì, sì, io sono proprietario di palazzi a Mashhad, i miei fratelli hanno catene di supermercati a Pasadena. Hanno fatto bene a dargliele. È una cosa seria, Carmen. E il padre di Ludo cosa c'entra? L'avvocato Castiglioni ha fatto la sua apparizione al commissariato con il suo soprabito bianco, la sua borsa di coccodrillo, sembrava Papa Voitilia benedicendo Urbis et Orbis. Conosceva tutti. Dava del tuo al maresciallo, poi ha detto che mio padre era suo cliente. Ma mio padre era tutto paonazzo, non so neanche se l'ha riconosciuto il padre di Ludo. Ha urlato che non aveva commesso reati e che quindi non aveva bisogno di avvocati. Avrà anche detto che gli avvocati sono tutti parassiti. L'ha detto. In questi casi sfoggia tutto il repertorio. E il padre di Ludo? È stato inappuntabile, paziente e professionale. Ha chiesto di conferire con il suo cliente. E il suo cliente? Ha ribadito che gli avvocati sono tutti parassiti. E anche ladri. A questo punto ha fatto per alzarsi, ha alzato il braccio. Come fa per dire le sue scemate, no? Non sfottere mio padre. Aram, quell'arabo selvatico ti tratta come un burattino da quando ti conosco. È quello che ho detto anch'io. Lo vedi? È un incontinente collerico e tu lo difendi sempre. Se due carabinieri saltano addosso a tuo padre, cosa fai? Li massacro. Appunto. Insomma, loro non conoscono mio padre. Non sanno che quando parla si agita, chissà cosa hanno creduto. Lo hanno placcato e l'hanno rimesso a sedere, mentre uno gli teneva il braccio torto dietro la schiena perché non si muovesse. Vabbè. Il padre di Ludovico. Calma, calmiamoci tutti, non succede niente. L'ha difeso. E tu? E io gli sono saltato addosso. Ai carabinieri? No, al padre di Ludovico. Al padre di Ludovico? Sì. Perché? Perché? Perché? Perché... Vabbè, Aram, te lo spieghi dopo, eh. Viva gli sposi! Viva gli sposi, Aram! Viva! Ludovico Castiglioni e Michela Rimonti sono lieti di invitarvi al loro matrimonio. La cerimonia avrà luogo presso la chiesa dei frati di Sinago Milanese alle ore 12 del giorno 12 dicembre. Il terrorismo ci spinge lungo un percorso di degrado a inquinare i nostri standard democratici per poi potercelo rinfacciare. Chiedo scusa, ma in questa situazione bisogna sopportare qualche limitazione delle libertà. Chiedo scusa, non volevo sparare, ho pensato che volesse aggredirmi, è morto? Chiedo scusa, ma aveva una borsa strana, di coccodrillo. Cosa c'era dentro quella borsa? Come faccio a sapere io che non c'è una bomba? Comunque chiedo scusa. Ma aveva un comportamento sospetto, non so, si guardava intorno, si guardava alle spalle. Ecco, si guardava alle spalle. Comunque ho chiesto scusa, no? In un mondo come questo, qualche limitazione delle libertà personali bisogna sopportarle per la vostra sicurezza. Chiedo scusa, ma al mio posto avreste fatto lo stesso. Chiedo scusa, ma aveva un soprabito troppo largo. Lo sapete cosa si può nascondere dentro un soprabito troppo largo? Chiedo scusa, comunque chiedo scusa, ma lui era bianco, chiedo scusa. Ma con quello che si sente in giro bisogna avere pazienza, è stato un errore, però lui era bianco, capito? Bianco, era bianco, aveva un soprabito, chiedo scusa. Ma la guerra al terrorismo richiede anche il sacrificio di qualche piccola libertà. Non è che uno può pensare di essere bianco, di poter entrare così in un ufficio pubblico, salutando tutti, dando del tuo al maresciallo, benedicendo urbi e torbi, come se niente fosse, libero, libero, chiedo scusa. Aveva la pelle bianchissima, bianco, assomigliava tutto a Ludovico, Ludovico, Ludovico, dove sei? No, non sei tu, Ludovico, sono io, Ludovico, non mi riconosci, fermo immagine, guardami, Ludo, Ludo, non mi toccare, lasciami, cosa fai? Non toccare mio padre, Ludovico, lascia stare mio padre, se provi a mettere le mani addosso a mio padre, ti ammazzo. Sono io, Ludovico, mi senti? Sono io, Rambo, ti prego, no, non lo fare, dai, sei mio amico, il mio migliore amico, ti prego, ti prego, ti prego! Ludovico, sono io, Rambo, tu sei Ludo, siamo andati in casa insieme, la signora Simeoni, la vecchia maestra delle elementari, te che ci fai ridere tutti quanti, io che sono Manu Cercan, nobile, come mio padre, come Gengis Khan, Manu Cercan, Gengis Khan, mio nonno era ricco sfondato, non stava mica a coltivare cotoni come voi qui a Chicago City, mio nonno, donne, gioco, bella vita, ristoranti, limousine, yacht, crociere, palazzi, lecce, sesso, droga, rock and roll, ricchissimo, terreni, scusa, ma era troppo largo, c'è soprattutto Mascia della bianco, seconda città bianco, dell'Iran dopo bianco, terra, bianco, bianco, a Mascia di bianco, mio padre, tutta la terrazza bianco, bianco, bianco. Cosa vorrà dire? Mascia, Ludovico, Carmen, Davide, mamma, papà, mamma, sono io, sono qua, l'odore che ci sarà dopo le immagini, al telegiornale delle 20 non le sentirai, il cuore in gola, il corpo sudato non lo sentirà, le immagini nella tua testa, i pensieri, la luce, lui e i sogni, non sentirai. Te vuoi mettere le mani addosso a mio padre, te che sei mio fratello di sangue, te che sono il tuo rispetto, non lo sentirai, non ti vedono, non si accorgono. Bianchissima, bianco, bianco, bianco! Non sei tu, no, non lo sentirai, non sei tu, no. Calmati! No, non lo senti. Perché? Hai urlato, cosa sognavi? Che sognavo? Sognavo... Che sognavo? Sognavo l'altra notte, al commissariato. Carmen. Potevo farlo, Carmen. Ma cosa? Potevo ucciderlo, Carmen. Quando ho visto il padre di Ludovico che difendeva mio padre. Mio padre. Nella vita ho pensato a mio padre molto meno di quanto avrei dovuto. No, non è giusto. Io potevo sparargli. Scusa, lui difendeva tuo padre, tu volevi ucciderlo come... Era bianco, Carmen. Io non ce la faccio più. Non lo sopporto più di dover essere aiutato da bianchi buoni, professionali, comprensivi. Sì, con il loro bel soprabito bianco, la loro borsa di coccodrillo. Io non c'ho bisogno d'aiuto. Mio padre non c'ha bisogno d'aiuto. Io, Carmen, sono uno di quelli che si riempiono lo zainetto di esplosivo, fanno saltare la metropolitana di Londra. Ma ancora con sta storia, Ram. E se uno alto e biondo con gli occhi azzurri ti dicesse lo zainetto pieno di bombe, tu ti metteresti a ridere? Lo sappiamo, Ram. Ma se te lo dico io, che sono un povero piccolo spiegato in nero. Basta, è un sogno. È mio padre Manu Cercan, è Mashad, è il nonno puttanieri, i terreni in Iran, è un sogno, capito? Un sogno. E se non la pianti di svegliarmi con i tuoi sogni, te ne vai a dormire a casa. Ah! Che c'è? Che c'è? Si è mosso. Fammi sentire, fammi sentire, fammi sentire. Non si muove più. Cioè, quando arrivo io non si muove più. Non si muove più. Fallo muovere. Ma vattene, fallo muovere, vai, va, vattene a dormire a casa tua, fallo muovere. Senti, Carmen. Ma adesso che arriva il bambino, non è che potrei venire ad abitare con te? L'appartamento è troppo piccolo. Allora vieni tu da me. Il tuo ancora più piccolo. Prendiamone uno più grande. Mia Ram, due case sono meglio di una, dormi o vattene a casa tua. Sai cosa mi ha chiesto Ludovico l'altra notte sul gradino del commissariato? Di sposarlo al posto di Michela? Di lavorare con lui e Michela all'agenzia immobiliare. Oh, mamma santissima. Dice che dopo Ahmadinejad magari il mercato immobiliare in Iran si smuove. Stai scherzando, vero? Ludovico dice che potremmo mettere su un'agenzia a Teheran o a Mashhad. E tu che gli hai detto? Che magari potrei riprendermi i terreni di mio nonno. Vattene. No, aspetta. No, prendi i tuoi stracci e vattene a casa tua. Ma scherzavo, Carmen. No, per favore, ti ho detto di alzarti dal mio letto e di tornartene a casa tua. Guarda, lui mi ha chiesto di andare a lavorare vattene. Con lui. Ma l'Iran è uno scherzo. Vai via. Ma sono il padre di tuo figlio. Vattene a casa tua, che domani mattina devo andare al lavoro io. Scusate, scusate, devo dire una cosa. Sono Manucher Khan e voglio dirvi che la storia che vi ha raccontato mio figlio, Aram Khan, non è tutta vera, è tutto falso. Tutto falso, mai detto che avvocati parassiti, mai. Magari filibustieri, ma mai parassiti. Mai esagerato così tanto. Poi a raccontarla con lui c'erano anche... Simona Nasi, ecco, che faceva mica la ciocia delle tettine rimonti. Ecco, ecco, sì. C'era Tatiana Lepore che faceva Carmen. Carmen, sì, mi ricordo. Manu è brutto messo che era Davide. Sì, Davide! Ecco. E poi Giovanni Vaccaro. Sì. Ludovico. Ecco che tu devi stare alla larga da mio figlio, drogato. Guarda, stai alla larga. E non dobbiamo dimenticare che assistente alla regia Fabrizia Franconi, tecnico del suono Ezio Ivaldi, e poi che questo sceneggiato è curato da Caterina Olivetti, da Emma Caggiano. Le scenofonie sono di Roberto Tarasco, la regia è di Gabriele Vacis. Ma dico, ma un nome normale come il mio non ce l'ha nessuno qua dentro, Manucher come mio, no? Normale. Vabbè, dai, addio, saluti e ricordate, storia finta, storia finta. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.